Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. A volte nelle carte ufficiali parlamentari si trovano e si scovano delle notizie belle ma al tempo stesso inquietante. Devo dirvi, cari radioascoltatori, che stavo per documentazione sul ciclo illegale dei rifiuti, leggendo alcune audizioni rese in commissione bicamerale, quando ad un certo punto mi imbatto nell'audizione tenuta il 25 maggio in commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti dal questore di Latina Nicolò D'Angelo. Mi colpisce questa deposizione, questa audizione, perché poco aveva a che fare con il ciclo dei rifiuti, ma introduceva qualcosa di sorprendente. Vale a dire, il questore di Latina parlava della città di Aprilia. Siamo in un bellissimo e grande comune alle porte di Roma, possiamo dire. Da Latina è, diciamo così, abbastanza vicino, si trova in provincia di Latina, in una provincia purtroppo dove storicamente da almeno 40 anni le mafie la fanno spesso da padrone, e sentiamo come si esprime il questore di Latina a proposito di Aprilia. Credo che il problema riguardi la speculazione edilizia e in particolare immobiliare. Dobbiamo fare i conti della spesa e capire quali sono le aziende e qual è l'indotto attraverso il quale, dal punto di vista economico, una città o una provincia sale di livello. Non ci sono grosse aziende o un grosso indotto economico, ma la guerra del mattone. Alla fine sono queste le cose che contano. Noi abbiamo monitorato attentamente le famiglie. Gli Alvaro hanno creato un'azienda di componenti elettrici e si sono inseriti in qualche appalto che noi abbiamo bloccato, sequestrando addirittura un palazzo nel corso di indagini che sono ancora in corso. Dunque, ad aprire la guerra del mattone, la presenza di tantissime cosche storiche, dell'Andrangheta e della Camorra, e l'edilizia e il terreno non di scontro ma di pacificazione, perché le cosche, quando si tratta di fare affari, trovano sempre il modo di andare d'accordo. Una città che nel 1991, pensate, aveva 47.000 abitanti, a breve ne avrà esattamente il doppio, siamo già intorno agli 80.000. E di questo ne parliamo con il sindaco di Aprilia, che è stato per primo sorpreso di queste parole. Do quindi il benvenuto al dottor Domenico D'Alessio. Buongiorno D'Alessio. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, queste parole l'hanno sorpresa, D'Alessio? Ma sorpresa, diciamo che io faccio una piccola premessa, sono un politico di lungo corso, qui da Aprilia faccio politica da circa 20 anni, e quindi mi vanto di conoscere abbastanza bene il territorio, e forse sulla descrizione che fa il questore D'Angelo, Nicolò D'Angelo, c'è qualche inesattezza oppure qualche cosa è un po' datata. Prego, diciamola pure. Ecco, allora pure. Intanto voglio fare una piccola descrizione della mia città. Insomma, premetto, sono sindaco da un anno e quattro mesi qui ad Aprilia. Però la città di Aprilia è una città che ha non solo una grossa vocazione del mattone, ma intanto una grossa, nasce come una città rurale, ha ancora un'economia agricola di importanza, ha delle eccellenze. Faccio solo un esempio per non annoiare gli ascoltatori. Noi siamo la punta di diamante per la produzione del kiwi. Ad Aprilia si produce più kiwi tra Aprilia e Cisterna che in altre zone. Sì, così come ad esempio avete una grandissima tradizione imprenditoriale, grandissime multinazionali sono ad Aprilia, soprattutto quelle del farmaco. Però io direi di concentrarci sulle denunce del questore. Per dare uno spaccato della città. Assolutamente corretto. Quindi a grande città industriale e così via. Detto questo, poi non nascondo che la posizione geografica della nostra città si presta in maniera particolare a questo ragionamento dell'ipotesi della speculazione del mattone, e infatti i dati dicono che Aprilia, in controtendenza come forse tutte le città d'Italia, ha una crescita demografica dai 1.000 ai 2.000 abitanti ogni anno. E quindi, essendo una città molto giovane, siamo ormai alla soglia degli 80.000 abitanti. Certo. Una proiezione, come diceva qualcuno, sui 100.000 a breve. Quindi... Ecco, ma voi avete gli anticorpi per combattere quello che sarà, è già un problema come denunciato, ma lo sarà sempre di più, cioè la penetrazione dell'economia illegale, dei capitali sporchi, anche nell'economia legale. Allora, guardi, io ho una mia idea molto precisa, io e la mia amministrazione, che è questa. In campagna elettorale io ho lanciato dei moniti molto forti, qualcuno mi diceva che esageravo, ma ero convinto di quello che dicevo. Dicevo che questa città stava attraversando una china pericolosa, proprio riferito anche al comparto edilizio, e dicevo che la politica poteva mettere un argine a questa vicenda. Oggi che faccio il sindaco di questa città, ne sono altrettanto convinto. Ecco, e gli argini che lei vede quali sono? Ma gli argini solo affinché l'amministrazione comunale programmi una espansione edilizia con le regole. Non dobbiamo trasbordare dalle regole, non dobbiamo dare lo spazio agli speculatori, dobbiamo mettere i paletti e far rispettare le regole che ci sono. Quindi anche contro l'abusivismo, che mi pare sia un problema che è abbastanza sentito ad Aprilia. Infatti l'abusivismo, io posso dire che è stato un momento di sviluppo eccezionale, il 40% della città è abusiva, questo glielo dico. Però, ecco, colgo l'occasione, venerdì il Comitato Tecnico Regionale porrà un punto fermo su questa vicenda, noi abbiamo mandato tutti gli atti in regione e venerdì verrà chiusa la variante speciale dei nuclei abusivi e quindi da lì si riparte, questa città riparte, vuole ripartire con forza nella legalità. Poi ci sono state molte speculazioni in questi anni, varianti secche da terreni agricoli a edificabili e così via, e questo è chiaro che aiuta chi deve fare speculazione e chi, lo dico senza mezzi termini, deve anche riciclare i soldi, certo, e si inserisce in queste situazioni dove è possibile edificare. Assolutamente, io sono contento di aver sentito insieme a voi il sindaco di Aprilia, Domenico D'Alessio, perché abbiamo capito che l'amministrazione è impegnata nel fare argine a quello che è un fenomeno, ahimè, purtroppo consistente, quello della penetrazione dei capitali sporchi nel riciclaggio del mattone. D'Alessio ci dice, lui e la sua giunta sono lì ormai per dire e per mettere un punto fermo. Quindi lo ringrazio per questa chiacchierata, così come ringrazio Paolo Corleone in regia e Laura Fagini in redazione, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.